queste nostre croci sono tantissime. No, scusate, per favore, non lo accetto. No. Adesso state zitti e lo fate parlare. Io vi ringrazio. Ringrazio il riformista e Radio Radicale dell'organizzazione e dell'invito, stracondividiamo tutto. E quindi anche noi ci uniamo a questo abbraccio per la libertà di espressione, la libertà religiosa del popolo tibetano e non solo. Ricordiamo, come è stato detto, degli interventi importanti che ci hanno preceduto, sottoscriviamo tutti come i diritti umani e la libertà vanno difese, e ricordiamo che la Cina purtroppo commette anche il crimine dell'aborto di Stato verso le bambine, e mancano milioni di bambine che vengono abortite sistematicamente da uno Stato cinese. Quindi, ecco, volevamo in questa giornata ricordare queste. Grazie ancora dell'invito e dello spazio. Grazie a voi, tra l'altro la questione che ponete è sensatissima, quindi non vedo ragione di contestare.